In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Questa puntata parla di OpenPod e della campagna Non lasciamoci disassemblare, una cassetta degli attrezzi tecnologici per resistere alla sorveglianza e alla vendita dei nostri corpi digitali. In questi periodi di clausura ed epidemia stiamo assistendo a un fenomeno pericoloso, la digitalizzazione accelerata e forzata di molti settori della società e di tanti aspetti delle nostre relazioni. Dall'organizzazione dello smart working alla didattica a distanza, dagli aperi Skype o aperi Zoom, allo streaming video e musicale, all'aumento esponenziale degli acquisti online e dell'utilizzo dei social network per restare in contatto. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Google, Microsoft, Apple, Amazon e gli altri operatori privati, grazie alla loro posizione di monopolio, hanno avuto l'occasione di appropriarsi di interi segmenti di tempo e spazio delle nostre vite in modo capillare. Il prezzo da pagare è duplice. Da un lato, un continuo processo di estrazione di dati e la conseguente profilazione delle nostre vite. Dall'altro, l'esclusione sociale se non si utilizzano quelle applicazioni e quegli spazi digitali che sembrano diventati indispensabili per garantirci efficienza, soddisfazione, tempo libero, relazioni e lavoro. Well, time to go gliding in the one horse lane. Per questo, visto che è Natale, abbiamo pensato di farci un regalo, la campagna Non lasciamoci disassemblare, una cassetta degli attrezzi digitali che contiene una serie di strumenti, risorse e software per resistere alla sorveglianza e alla vendita dei nostri corpi digitali. Per comunicare, scrivere, condividere file online, esistono strumenti come WhatsApp, la suite di Google Drive e WeTransfer, che ci permettono in modo fruibile di muoverci nei diversi ambiti della nostra vita digitale. Ma hanno un piccolo difetto. Espropriano i nostri dati personali e li vendono al migliore offerente, rendendoci più sorvegliati e ricattabili. Ci dovrebbe fregare un po' di più il sapere chi sta prendendo i nostri dati personali tramite le nostre interazioni con questi strumenti gratis, tra virgolette. Dati personali come dove siamo o dove andiamo, quanto tempo abbiamo guardato che cosa, che informazione abbiamo condiviso, quando e con chi, eccetera. Per comunicare, scrivere, condividere file online esistono anche strumenti alternativi che ci prendono cura della privacy dei nostri dati personali. Per questo motivo abbiamo condiviso tramite la campagna Non lasciamoci disassemblare alcune soluzioni come Signal, un'app per messaggi e chiamate criptati end-to-end che assicura una comunicazione sicura. Criptati end-to-end significa che le uniche persone che possono leggere i messaggi sono quelli che comunicano. Per scrivere online, di maniera collaborativa, abbiamo suggerito CryptPad, un'alternativa a Microsoft Office, Google Documents e Google Drive, rispettosa della privacy. Niente tracciamento dell'informazione, niente profilazione, pubblicità mirata o data mining. Basicamente il server e l'operatore, grazie alla crittografia, non possono mai leggere i documenti su cui stiamo lavorando online. E invece fate un paio di domande su Google che ha accesso a tutti i tuoi documenti e modo di lavorare. Finalmente, per riportare un altro esempio sugli strumenti che abbiamo condiviso con la campagna Non lasciamoci disassemblare, abbiamo suggerito Share RiseUp come servizio per la condivisione di documenti online. Di solito tutti usiamo WeTransfer per la condivisione dei grandi file, ma è importante sapere che WeTransfer è un servizio comodo ma non sicuro. I file vengono inizialmente caricati sul server di WeTransfer in forma crittografata, cioè nessuno accede ai file. Ma a quello a chi qualunque entità può accedere è al link di download sulla casella di posta elettronica che sì è tracciabile. WeTransfer, come tante altre società proprietarie di questo tipo di tecnologie, anche se europee, hanno i server in paesi come Stati Uniti, seguendo regolamentazioni sulla privacy diverse da quelle europee. Perciò, attenzione alla condivisione online di file che contengono dati sensibili, ad esempio scansione di passaporto, dichiarazione dei redditi, documenti aziendali o foto private, in formato non crittografato attraverso tecnologie come WeTransfer. Noi abbiamo suggerito invece Share RiseUp, dove puoi condividere file fino a 50 MB in forma anonima e criptata. Ideale per immagine, solo testo in formato TXT. I file rimangono online per 12 ore, poi vengono cancellati. È possibile anche cancellarli manualmente. Campagna Non lasciamoci disassemblare, abbiamo prodotto un bellissimo quaderno dove abbiamo fatto la raccolta di tutte le tecnologie alternative che abbiamo suggerito e allo stesso tempo abbiamo aggiunto qualche lettura interessante. Potete trovare il PDF scaricabile dal sito di Off Topic Lab. Nella barra di ricerca potete cercare direttamente su il nome della campagna Non lasciamoci disassemblare. Vabbè, buonasera a tutte e tutti. Mi sento Pippo Baudo con davanti a un telefonino, però è un po' così. Questa campagna, in inglese, si chiama Reclaim Your Face. Cane di Ruga Productions presenta C'era una volta e c'è ancora La Blogosfera. Un altro strumento della cassetta degli attrezzi digitali di cui stiamo parlando è OpenPod, di cui il nostro podcast Fuori Fase fa parte. Si tratta di un network o una community di contenuti autoprodotti che tenta di dare al podcast una dimensione più libera e conviviale. Tante e tanti compa che conosciamo ascoltano o producono, autoproducono contenuti registrati che spesso affollano archivi, hard disk e blog. Ma altrettanto spesso il salto, diciamo così, al podcasting è impedito un po' dalla pigrizia, un po' dalla vocazione commerciale delle piattaforme di hosting e distribuzione, che sono quelle note, Spotify, Spreaker, Google ed Apple Podcast e via discorrendo. Eravamo alla ricerca di un modo per fare un podcast libero dalla profilazione, da software proprietario, da costi per chi produce e chi invece ascolta e dalla monetizzazione dei contenuti, quindi pubblicità e via discorrendo. Non volevamo creare il software, diciamo, con la S maiuscola definitivo e omnicomprensivo, ma provare a sfruttare delle risorse già disponibili nel migliore modo possibile. Una sorta, diciamo, di approccio ecologico al digitale. Abbiamo quindi iniziato a cercare una soluzione per l'hosting, che significa dove andare a caricare di fatto i file delle mie puntate, e abbiamo optato per una soluzione preesistente, che era quella dell'Internet Archive. L'Internet Archive è di fatto una biblioteca digitale no profit che ha lo scopo dichiarato di consentire, come scrivono sul loro sito, un accesso universale alla conoscenza, fornendo gratuitamente lo spazio e le infrastrutture. E di fatto, oltre alla possibilità di non avere limiti di spazio per il caricamento dei nostri file, non ci sono neanche limiti di bando, ovvero la capacità di condividere il tuo contenuto in streaming contemporaneamente con molti utenti. E questo è estremamente vantaggioso perché tutte le altre soluzioni esistenti sono commerciali e a pagamento. Ci mancava quindi poi la seconda parte, cioè come andiamo a distribuire questi contenuti al di fuori dell'Internet Archive una volta che li abbiamo caricati. E per fare questo abbiamo dovuto fare prima di tutto una piccola guida di buone pratiche per come caricare questi file da un punto di vista anche di metadati necessari, come per esempio un titolo ovviamente, ma anche una categoria di cui a cui appartenesse il tuo podcast e così via. E l'ultimo passo è stato quello di creare un feed RSS, cioè tecnicamente questo feed RSS è il modo in cui si divulgano i podcast. E però il problema era che già Internet Archive creava un feed, che però non è compatibile con le piattaforme di podcasting e di distribuzione di podcast. Di conseguenza abbiamo sopperito a questa mancanza creando una piccola applicazione web che prendesse i nostri dati dei podcast e Internet Archive e li riformattasse in modo corretto perché potessero essere letti da diversi, appunto, lettori di podcast o distributori di podcast. Tecnicamente abbiamo fatto quello che si viene chiamato un parser. Molto importante, per rimanere nello spirito, diciamo, open, tutto il codice, appunto, è rilasciato sotto la licenza aperta e chiunque può contribuire, modificare e riutilizzare il codice liberamente per i suoi progetti. Per i più nerd, invitiamo tutti anche ad andare su quello che viene definito il repository, cioè dove viene salvato il file, su git.lattuga.net/offtopic. Ah, e poi mi stavo dimenticando, ma è stato di fondamentale importanza il supporto del collettivo Unit, un collettivo di hackeri che è a base a Milano, che ci ha fornito il loro spazio sui server e supporto tecnico, che quindi per noi vuol dire anche un supporto politico. Il 20 luglio 2018 il gruppo di ricerca Emidio di Treviri è stato ospite del campeggio nazionale dell'APE a Campotosto. Segue la registrazione dell'incontro. Picchi di frequenza, storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Al momento la mini community di OpenPod conta 8-9 podcast pubblicati ad oggi in piattaforma. Tanti altri stanno testando lo strumento, ma soprattutto visibilizzare questi contenuti ha permesso ad alcuni network dell'autogestione, radio di movimento, web radio, radio locali in AM, di pescare tra questi contenuti liberati per farli circuitare nei rispettivi flussi di musica e parole. Quando abbiamo pensato di ripubblicare la rivista Wow, abbiamo anche pensato a come riproporre l'importanza che il fumetto e le illustrazioni avevano nei numeri precedenti. La nostra è un po' una radio senza flusso né palinsesto, un aggregatore di autoproduzioni di cui non devi procacciarti ogni singolo aggiornamento né inseguire le prodezze social dei progetti, ma a cui puoi liberamente e gratuitamente abbonarti e poi scaricarli, ascoltarli, diffonderli quando e dove vuoi. Parallelamente alla creazione della community, che comunque rimane, diciamo, il punto fondamentale del progetto adesso, ci sono altri piccoli upgrade tecnici che bollono in pentola. Giusto per citarne alcuni, a breve rilasceremo un player che ogni utente potrà facilmente caricare come pagina sul proprio sito contenente uno o più podcast. Oppure abbiamo aperto un account su Mastodon con l'intenzione di utilizzarlo come un bot che automaticamente ripubblichi le nuove puntate del network di OpenPod nel Fediverso. E che altro dire? Per tutti gli altri aggiornamenti però puoi trovarci su openpod.abbiamoundominio.org o su Mastodon a openpod@nebbia.fail. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti i martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Isola. A presto, ciao!